Ben ritrovati, ben ritrovate. Ciao a tutti, in elegantissimo ritardo. Sì, direi un... Perché se comunque... Un ritardo elegantone. Mea culpa, tra l'altro, come al solito e... Vabbè, vabbè, ma d'altra mi parte... Mi pento. Ma poi era una giornata un po' uggiosa, non è che si può essere anche puntuali. No, sì, ti immagini, se no, che... Infatti, va sei bene. Bassissima di volume, sono chissà bassista, che succede. Strano, sono sempre nella caverna. No, ora è un po' ora meglio, meglio, dai. Va bene. Sì, sì, sì, sì. Io già, di mio, vero, non spicco, per cui... Questo è il solito sabotaggio, io lo so, qui chi lascia... Sì, esatto. Lasciamo verde. Ovviamente, ovviamente. No, no, no, ma adesso ti si sente bene. E, allora, Fuga del Gatto, Radio Wombat, ovviamente, e vi dico subito i nostri contatti, prima di dimenticarli, i cosiddetti social Wombat, a partire dal sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando, se ci ascoltate in streaming o in podcast, perché potrebbe... non essere il caso, cioè potreste non starci ascoltando in diretta, e poi la nostra frequenza 1359 sulle onde mediocri, quindi in AM, se siete così fortunelli e fortunelle da essere raggiunti dal nostro Wombat segnale, e poi la casella di posta, posta Wombat, @insiberia.net. Beh, esatto, adesso ci ho siamo, detto. Ha detto tutto. Va bene, oggi direi che si inaugura un ciclo che tornerà poi, insomma, saltuariamente, ovviamente, non vi preoccupate, non, così, non vi spaventate, che è la fuga del gatto ballerino, perché, sì, insomma, al gatto gli piacciono i balletti e quindi col Wombat vanno così al teatro a vedere i balletti nelle loro poltroncine così riservate dei palchi dei più grandi balletti europei, perché come comunque il Wombat e il gatto hanno dei discreti privilegi facendo parte, insomma, ora non di una voglio stirpe. Dire di una stirpe, anche di associazioni segrete, ora non sto a semidei. Sì, esatto. Per cui, ecco, siccome questa settimana, cioè quindi questa che viene, la prossima, da domani, martedì, ci sarà in proiezione al Cinema Odeon in diretta dal Royal Opera Ballet, dal Royal Opera House, quindi dal Royal Ballet, una versione di La Bayadera. E dice che è una, insomma, ho letto diverse presentazioni e sarà una versione particolarmente bella, con un allestimento molto, molto particolare, poi vi darò altre informazioni dopo. Però dato che appunto questa settimana soltanto martedì, perché all'Odeon, al Cinema Odeon a Firenze, viene fatto appunto un ciclo di dirette dalla Royal Opera House, sia di opere liriche sia di balletti, e appunto questa settimana verrà proiettato in diretta, a quanto ho capito, quindi nello stesso momento in cui viene fatto a Londra, il balletto della Bayadère. Queste operazioni di mandare su schermo cinematografico i balletti e le opere sono di solito interessanti, perché danno la possibilità di vedere a chi non, appunto, magari non va spesso al teatro, o appunto di vedere degli allestimenti particolari che non vengono magari proprio in Italia. Sì, tra l'altro anche a chi non c'ha soldi, perché e a maggior ragione a chi non c'ha soldi, perché ovviamente un conto è pagare il biglietto del teatro, un conto è pagare il biglietto del cinema, e soprattutto è a maggior ragione interessante quando lo fanno in diretta, ovviamente, perché la registrazione è comunque così, la registrazione di uno spettacolo viene mandata. Quando è in diretta è ancora più interessante, perché ovviamente è live, quindi... E per i ciechi come me, dirò che vederlo al cinema è un po' più, che lo zoomano, che lo fa, si vede più vicino, è comunque meglio. Perché... Anche perché, collegandoci alla mozione di prima, effettivamente, non avendo soldi noi poveracci, poi andiamo, ci prendiamo il biglietto con lo sfiga, esatto. Sì, dove è bello. E nonostante il binocolo che io mi porto sempre dietro, però... Insomma, non avevamo dubbi. Il binocolo io ce l'ho, che poi non è nemmeno da teatro, è proprio il binocolo del nonno, quello della guerra. Da Bird Watching. Sì, quello da no, proprio della Grande Guerra. Lasciamo perdere. Questo è un argomento per un altro, così, per un altro disagio. Però quindi la Bayadère, volevo appunto presentarvi, in caso che qualcuno di voi fosse interessato ad andare al cinema Odeon martedì, che il giorno mi sfugge, 23. Se non mi sbaglio, No, a me lo no, chiedi, non perché lo so. oggi, scusate, no, martedì dovrebbe essere il Te lo dico, 13 te novembre, tipo, sì, 13 Sì, 13 novembre, novembre. martedì 13 novembre, comunque dopo daremo le info per chi fosse interessato. Ecco, ovviamente, come quasi tutti i balletti della tradizione classica, in questo caso c'è anche più, si chiama così, la tradizione del balletto romantico, è così, vede, ha le sue origini in Russia, e non è un caso perché molti dei balletti che abbiamo, alcuni già sentito, altri così, dei pezzi, nascono in Russia. Perché? Perché ovviamente la tradizione così, dei coreografi, dei musicisti che si mettevano a servizio dei balletti era particolarmente forte nella Russia insomma, zarista e poi anche post. In particolare, in questo caso, come in altri casi, questo balletto vede la collaborazione del coreografo Marius Petipa, che, vabbè, ora poi faremo Ora, l'introduzione, però. scusate, cioè, però comunque ci sono dei nomi su Sì. questa la trasmissione di oggi, per cui cioè, non Sì. smettetela di prenderci in giro, io lo so che Vabbè. i nostri fan sono lì che si ridono Sì. sotto i baffi, però va così, È sono nomi così, strani. è russo, è così. Mario Spetiva e la musica di Ludwig Mincus. Vabbè, il libretto è di Sergei Kudekov. Vabbè, non lo so, E vediamo di vabbè, qualcos'altro. niente. Tipo Bart Simpson quando telefona. Vabbè. Vabbè. E perché, appunto, dicevo celeberrimi? Perché in realtà, appunto, sia Petit Mincus meno conosciuto, poi diremo perché, ma Petipa, appunto, è un nome che chi ha, insomma, un po' di infarinatura di balletto, quantomeno così gli è capitato, ha sicuramente sentito nominare, perché è stato fondamentalmente un ballerino e un coreografo. In realtà era francese, però poi lavorò fondamentalmente Quindi molto per il Petipa. Petipa, in realtà sì, per il balletto imperiale di San Pietroburgo in Russia, fondamentalmente dalla metà dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento, quindi insomma per 50 anni. Fu creatore di 50 balletti, molti dei quali rimangono proprio nel repertorio, cioè i passi studiati da lui tuttora si ballano, chiaramente magari rivisitati, rieditati, però fondamentalmente le coreografie dei balletti, quelli che si vedono, non solo quelli proprio classici, ma anche quelli che poi sono stati ripresi, insomma, più tra virgolette contemporanei, nascono proprio da lui. Cioè lui è stato proprio il coreografo, più che altro ha influenzato proprio la tecnica del balletto, e ha portato l'evoluzione del balletto classico, insomma, in quello che era il balletto classico, e soprattutto nello sviluppo di quella che si chiama proprio la scuola russa, perché fondamentalmente lavorò in Russia. Le opere più note, vabbè, appunto, partendo dalla Baia d'Era, ma il Lago dei Cigni, per non dire il Don Chisciotte, La Bella Addormentata, Cenerentola, quindi, cioè, praticamente quasi tutti i balletti, quelli che si ricordano come i balletti classici, no? Insomma, più tantissimi altri. Magari una volta faremo una puntata su Petipa e le musiche, perché davvero sarebbe da. E tra l'altro, tantissimi degli estratti che poi si vedono ballare a volte così come singoli, come pezzi da soli, sono comunque, cioè, sono estratti da suoi balletti. Proficuo fu appunto il rapporto con Ludwig Mincus, da cui questa è una delle opere che nasce dalla loro collaborazione. La prima rappresentazione a San Pietroburgo, in Russia, presso il Teatro Imperiale Bolshoi, e a data 1877. Però diciamo che come dire, la Baia d'Era è stata allestita e rivisitata molte volte nella sua storia, già ancora con gli autori in vita, quindi non è stata cambiata dopo, è stata cambiata già in corso d'opera, già cosa che in realtà spesso avveniva. Però, insomma, ecco, ci sono già versioni diverse, già nella carriera di Petipa ci sono state versioni modificate del balletto. Una delle scene più famose, e quella che spesso viene estrapolata ed è poi il nostro ascolto di oggi, È un famoso, appunto, che si è scritto in francese Grand Pas Classique, no, con il titolo di Il Regno delle Ombre, che appunto ascolteremo, ed è uno dei pezzi più famosi, più celebrati e spesso rappresentati a solo del balletto classico. Io non intervengo perché devo dire, devo confessare assolutamente la mia totale Vabbè, ignoranza. sono anche Cioè, tanto io, mi sono proprio, documentata, no, non è ma che vado a proprio zero. braccio. Quindi ti ascolto, sono qui, Guardi, mi racconti. io vado su quello che so, perché poi appunto anch'io quello che ho trovato, quello che mi sono documentata. No, ma lo dicevo perché sennò sembrava che mi ero addormentata, non sarò Comunque si svenuta. è addormentata, non è che No, è vero. non è vero. Come dire, allora, le origini di questo balletto sono interessanti perché sono un po' scure, un po' così, un po' spesso dibattute. Di solito, cioè, appunto, dipende un po' dalle fonti, però in generale, in generale, si dice che appunto, inizialmente il libretto fu attribuito a cioè, allora, mi sono persa. Funziona così. Allora, si pubblicava al debutto del balletto, tradizionalmente si pubblicava il libretto e con la spiegazione di come era nata l'opera. Però, diciamo, inizialmente la Gazzetta di, insomma, un giornale di San Pietroburgo indicava come autore, appunto, Kudekov, Petipa, che dir si voglia, scrisse invece una lettera in cui, appunto, si rivendicava, come autore del libretto, si rivendicava, appunto, la genesi anche del libretto, sostenendo che, appunto, questo Kudekov aveva contribuito solo in minima parte come direttore di scena. Diciamo che, però, le origini in realtà sono previe, non so se si dice, ma sono precedenti. Cioè, nel 1839 una compagnia itinerante di autentiche bayadère, cioè, perché non l'ho detto Ecco, effettivamente, infatti, l'ho cosa saltato, sono? scusate, perché in realtà il balletto è interessante e fece appunto così scalpore, insomma, suscitò Incuriosì. curiosità, perché è ambientato in questo panorama esotico dell'India. Antica e quindi chiaramente c'è tutto un immaginario, così una fantasia proprio no? Di costumi, di movimenti, tutti ispirati all'India, a quella che poi, insomma, chiaramente alla fantasia che si aveva sull'India pre-colonia, insomma, pre-arrivo Sì, perché non ci dei dimentichiamo. mostri inglesi. Quindi Sì. l'India, quella proprio, non vorrei chiamarla così, appunto, pre-colonizzata, ecco, non so se si usa Sì, il non termine. dimentichiamo che quelli erano i secoli in cui, beh, non che adesso sia diverso, ma insomma sì, magari è più complesso, però insomma erano gli anni in cui effettivamente si aveva una visione di questi mondi che per loro erano mondi primitivi, anche esotici, Esatto. che in parte lo erano, non primitivi, ma esotici, nel senso che erano effettivamente molto diversi, esterni. Boh, diversi dal resto delle cose, cioè del mondo occidentale. Però, Sì, esatto, chiaramente insomma. erano ovviamente fantasie, cioè erano comunque interpretati dall'occhio europeo e quindi ovviamente erano così. Sì, chiaro, erano interpretati, però erano molto, insomma, gli faceva, cioè, erano Eh affascinanti, no, ne è erano chiaro, affascinati. vabbè, poi c'è da dire che era tutto un po' come il mondo giapponese, appunto, quando arrivò la moda, appunto, del mondo giapponese no, per l'Inghilterra, piuttosto che perché, appunto, era un periodo in cui così arrivavano tramite, purtroppo, il mercato coloniale, arrivavano oggetti, arrivavano stampe piuttosto che tessuti, piuttosto che l'India era, la Russia tra l'altro è ancora più vicina all'India dell'Europa così occidentale, quindi ha ancora più probabilmente influenza, no? Ancora più vicinanza. E così questo soggetto dell'India misteriosa, che poi è sempre un po' rimasto, influenzò appunto vari artisti in vari campi e appunto in questo caso ispirò la Bayadera. La Bayadera, cioè il sottotitolo è La danzatrice del tempio, perché è appunto ora non ve l'ho svelato all'inizio, ma un balletto in quattro atti, sette scene con apoteosi. E la coreografia appunto di Petipa si unisce alle musiche di Mingus in una. Così, appunto, in una storia che in realtà è molto semplice, è un triangolo amoroso, come spesso accade nei balletti, la storia è così, abbastanza, insomma, Canonica. lineare, sì, anche perché chiaramente si deve esprimere col corpo, ecco, e quindi. E però, appunto, le origini sono un po' misteriose, perché al di là di, appunto, questo rivendicarsi di Petipa del libretto, in realtà però. Appunto, tornando un po' indietro, come vi dicevo, a Parigi nel 1839 una compagnia itinerante di autentiche bayadere indiane, quindi di autentiche. La bayadera, appunto, è la ballerina fondamentalmente di danze tradizionali indiane, che però in questo caso è un po' unita anche alla figura di una vestale, di una guardiana del tempio, diciamo, ecco, che si muove con le movenze del ballo indiano, del ballo del. Però. Ha una forma, è un po' così, un po' unita a una figura un po' più, Anche più mistica, sì, più volendo. mistica, appunto, un po' così. E arrivarono appunto a Parigi e lo scrittore Théophile Gautier, niente po' di meno che, scrisse quelle che forse appunto leggevo sono le pagine più ispirate nel descrivere appunto. Questa ballerina che era la prima ballerina di questa compagnia indiana, questa misteriosa Amani. Anni dopo, nel 1855, Gautier registrò il triste evento che la ballerina si era impiccata a Londra durante una crisi depressiva, e per ricordarla Gautier scrisse il libretto di Sakuntala, che è un lavoro teatrale che debuttò poi a Parigi nel luglio del 58 all'Opera, quindi credo sia un'opera. Lavoro tra l'altro scritto in parte da un poeta, cioè scusa, tratto da un poema indiano, quindi. Esatto, sì, ispirato a un poema indiano. Appunto, con la musica di Ernest Rieur. La coreografia era del fratello di Petipa, Marius, scusami, del fratello di Marius Petipa, Lucien Petipa. Sì, la Quindi, famiglia, perché poi invece vabbè. leggevo che c'era anche non so che parente, ma che era tra le danzatrici principali, Esatto. un'altra Una Petipa. ballerina, probabilmente, sì. Molti storici del balletto sostengono che questo sia la vera ispirazione della Bayadère di Petipa. Quindi lui fece un po' quello, ah no, me lo sono inventato tutto io. In realtà, probabilmente aveva tratto Da ispirazione Gautier. da Gautier e dal lavoro del fratello, appunto, di suo fratello. Poi leggevo che un altro lavoro con i temi simili in un'India esotica che può aver ispirato Petipa fu l'opera balletto in due atti. Di Filippo Taglioni, che probabilmente è imparentato con la Taglioni ballerina, perché boh, è strano che ce ne siano due, dal titolo Le Dieu et la Bayadère ou La Courtisane Amoureuse, musica di Daniela Auber. Quindi, che fu presentato a Parigi nel 1830 dall'Académie Royale de Musique. Tra il pubblico ad assistere a questo balletto c'era anche il giovane Petipa. Quindi, insomma, fu un grandissimo successo questo balletto di Taglioni. Ma come sempre poi le opere, l'abbiamo visto milioni di Esatto. volte, cioè sono frutto di mille ispirazioni, non esiste Esatto. l'idea originale, ma che ne dica la SIAE, ecco. E quindi, giustamente, appunto, come diceva la Mari, probabilmente una cosa influenzò l'altra, perché diversamente da come erano stati e come saranno poi altri balletti, come la Cenerentola, come il Lago dei Cigni, come il Don Chisciotte, che hanno magari delle origini letterarie o da favole, però più precise, lo Schiaccianoci, come abbiamo già visto nella puntata sullo Schiaccianoci, e vengono da un'opera specifica, una raccolta di racconti, o comunque questo qui ha un po' delle. Appunto, essendo il tema così un po' esotico, così straniero in un certo senso, ha delle origini più confuse, ha delle, così, delle, non ha, insomma, la sua storia non è proprio chiarissima, la storia della sua nascita. Il soggetto, appunto, come vi dicevo, è abbastanza semplice. Il balletto fu uno dei primi trionfi del coreografo al Teatro Imperiale a San Pietroburgo e fondamentalmente anche il tema era molto attrattivo per la platea di quel periodo, perché appunto l'esotismo, così un mondo un po' misterioso, un po' altro, le promesse di questo amore tradito, il sentimentalismo fortemente romantico e il gusto per il soprannaturale. Perché appunto l'opera presenta, come vi dicevo prima parlando dell'estratto del Regno delle Ombre, un passaggio anche nell'aldilà, appunto nel Regno dello Spirito, che non è però propriamente così una visione cattolica cristiana, ma una visione appunto esotica e così di, ora chiaramente non fa riferimenti alle religioni dell'India, però è chiaro che non è, insomma, che non è sì una fascinazione per altre culture, vai, e quindi esatto. Anche altre religioni, altre spiritualità, chiamiamole. Esatto, infatti. E l'esile trama, appunto riassunta, nel primo atto veniamo a conoscenza del guerriero Solor, innamorato della bayadera, appunto vi dicevo, Nikia, a sua volta amata dal bramino. Nikia costringe Solor a un giuramento d'amore eterno, che come sempre qui ci vuole la garanzia, e a Solon viene offerta la mano di Gamzatti, che è la figlia del Rajah, quindi appunto no, gli fanno un'offerta che non poteva rifiutare, ed egli accetta dimenticandosi, ahimè, la promessa fatta a Nikia. Oh, se se n'è dimenticata. Vabbè, ma gli uomini sono così, però. Ma capita. Vabbè. Durante i festeggiamenti per il fidanzamento, Gamzatti dice a Nikia il nome del suo fidanzato e lei si oppone inutilmente a questo fidanzamento. Una schiava, Aya, propone a Gamzatti di uccidere Nikia, certo. Direttamente. La leviamo così. Ma sai, ci ho avuto un'idea, no? Ma guarda, forse, alle volte, a pensarci prima. Vabbè, nel secondo atto vi è la danza della danza delle bayadere, scusate, alla quale partecipa anche Nikia. Aya, la schiava, dà a Nikia un cesto di fiori nel quale è nascosto un serpente velenoso che la morde. Il bramino le propone di salvarla a patto che lei accetti di sposarlo, perché ragazzi non si fa nulla per nulla. Nikia rifiuta e danza fino alla morte, fino alla sua morte. Ma comunque che bello, è una tragedia così edificante. No, vabbè, cioè, non è che c'è da stare allegri. No. Nel terzo atto, Solor, per dimenticare il dolore della moglie della morte di Nikia, fuma un particolare veleno, si addormenta e si ritrova nel Regno delle Ombre, che abbiamo appunto citato, e torna ad e appunto in essa ritrova l'amata, lo spirito dell'amata Nikia, al quale giurerà fedeltà eterna. E ho capito ormai, sono buoni tutti. Tanto. Nel quarto atto, durante le nozze tra Solor e Gamzatti, appunto il tempio crolla seppellendoli sotto le macerie. E via, apocalisse. Karma is a bitch, per cui occhio. È proprio il caso di dirlo, vista la provenienza. Sì, aspettavo un po', cioè, ho fatto il balletto apposta per quello della frase. Va bene. Ma in particolare noi abbiamo detto, sì. Facciamo sentire un brano solo, però esatto. Bello lungo. È un brano solo che in realtà appunto ha variato, cioè ora poi non l'ho, insomma, però avevo trovato appunto delle parti, degli appunti che parlavano proprio delle varianti di questo balletto fatte proprio a seconda di quando le versioni si avvicendavano, perché... Ora, non l'ho accennato, però la versione di Petipa è stata quella che è stata portata avanti fino al... quella che ancora si vede, ovviamente. Salvo, però, durante il Novecento, chiaramente, ci sono stati delle versioni un po' diversificate, aggiustate, con i passi un po'... Così i coreografi ci hanno lavorato e quindi diciamo che le versioni che si vedono sono fondamentalmente quelle che si vedono portate dalle compagnie in giro, insomma, ormai quasi un centinaio d'anni, direi. Sono fondamentalmente quella di Petipa, ora cercavo anche, e quella dell'American Ballet, che è degli anni 60 fondamentalmente. E che è stata un po' reeditata da una coreografa sempre russa, però che lavorava per l'American Ballet. Ora l'ho perso il punto, però oggi sono veramente nel disagio, ve lo dirò. Per cui ecco, ci sono più versioni, chiaramente si rifanno sempre alla coreografia principale di Petipa, ma magari, ovviamente, meno male, negli anni, nei secoli, si sono. Questo è un balletto ballato, cioè, veramente Nureyev, ma cioè, chiunque ha fatto almeno delle parti della Bayadera, perché è proprio un balletto di repertorio, un balletto che viene sempre anche solo gli estratti, tipo questo di cui stiamo Uno parlando. standard in Eh termini sì, un jazzistici, po' potremmo sì, è un dire. po' uno standard che viene poi sempre ripreso. Alcuni, addirittura appunto leggevo che Nureyev lo fece negli anni 60 solo la Danza delle Ombre e poi lo rifece come credo uno degli ultimi che ha fatto, forse l'ultimo prima di morire, tutto. Perché è interessante perché ci sono più ruoli, qui ci sono due ruoli maschili e tre ruoli femminili, che è abbastanza raro perché di solito nel balletto classico c'è cioè il ruolo maschile e il ruolo femminile principale. In Schiaccianoci un po' di più perché ci sono le danze dei vari personaggi e poi c'è la fata confetto, quindi. Però in generale, ecco, i balletti di solito due o tre ruoli, insomma, un maschile e due femminili, Lago dei Cigni per dire, mentre questo già c'ha quattro personaggi più tutto il coro e l'ambaradan, per cui, che non si dice coro, ma nel balletto Non si si dice neanche dice, Ambaradan, lo so, però, ma è d'altra lo parte so. È domenica. così, infatti, e c'ho le forcine dei bigodini che veramente mi battono sul cervello. E quindi, sì, diciamo che il pezzo forte, ecco, il pièce de résistance del balletto, che spesso viene così, viene estratto e ballato da solo, è Il Regno delle Ombre. Petipa rimontò un revival completo del balletto nella stagione 1900-1901, quindi parecchio dopo che il balletto era uscito, perché abbiamo detto che è del 77, quindi quasi 30 anni dopo dall'uscita, per Matilde con un cognome russo che non pronuncerò, che era la prima, sì, Svetlana, l'appena nominata prima ballerina assoluta, Svetlana, esatto. E alla premiere, appunto, insomma, la prima ballerina del balletto imperiale. Ma i cambiamenti più importanti attuati da Petipa, soprattutto ci fu l'uso degli allievi nella scena del Regno delle Ombre. L'uso degli allievi, cioè l'introduzione di quelli che sono magari gli allievi della scuola, che non sono i ballerini standard della compagnia, della scuola di balletto, ma magari sono ancora, ovviamente sono comunque bravissimi, però sono magari ancora allievi della. Ed era una cosa che evidentemente non si faceva, mentre poi è diventata una cosa abbastanza di prassi usare magari ballerini non del tutto appunto conclamati, ma ancora nella scuola di balletto. E appunto per aumentare il numero, perché il Regno delle Ombre ha appunto un grandissimo numero di ballerine in scena, perché crea, c'è cioè, tutta una creazione di complicatissime figure proprio geometriche quasi, soprattutto se viste un po' dall'alto, da chi li vede magari dai palchi, quindi li vede un po' più all'alto, si creano proprio queste figure composte di corpi, che è veramente bellissimo, un effetto mo molto molto bello, tipo ed è caleidoscopio. rimasto infatti, che poi verrà ripreso fondamentalmente, no, Sì, negli da anni molti. 30 e 40 da gente come Bugs Berkeley, quindi da tutti i coreografi americani, dei musical, E quelli che si anche vede nel sempre. cinema, da Sì, beh, appunto Melieda. esatto, quindi ecco, e cambiò l'ambientazione dal castello incantato nel cielo ad un palco completamente illuminato, appunto, in un paesaggio, cioè lui cambiò da questo castello incantato nel cielo, che era molto illuminato, che si svolgeva sul palco illuminato, lo cambiò in un paesaggio roccioso e molto cupo, sulle vette dell'Himalaya. E in ombra, appunto in grande ombra, chiaramente le luci ci sono, i ballerini si vedono, però questo effetto di buio. E i danzatori, appunto, passarono da 32 a 48, con le aggiunte, appunto, della scuola di ballo dagli allievi, creando l'illusione appunto di spiriti che descendono dal cielo nella famosissima entrata, perché quando entrano e il palco è completamente buio, allora cominciano a entrare illuminati con questa luce bianca, proprio luce veramente da fantasma, cioè sono illuminati in una maniera e sembra si muovano nel vuoto, perché chiaramente il palco è completamente buio, quindi è un effetto molto bello. Il Regno delle Ombre divenne poi appunto uno dei test cruciali per il corpo di ballo e per i giovani ballerini, perché, e anche ballerine soliste, perché poi c'è una parte di soliste, una parte di solo. Ora ovviamente voi lo ascoltate e non lo vedete, però comincia con tutto il corpo di ballo e poi ci sono dei momenti di solo in cui la ballerina balla da sola. E quindi appunto era un po' un test, è diventato un po' la prova del fuoco per le ballerine, insomma. Che ballano appunto danzando una delle tante varianti delle ombre, una delle tante i passi vengono comunque continuamente variati sulla base di quelli fatti appunto da questi spiriti, dalle ballerine che interpretano le ombre. Nel marzo del 1903 questo pezzo fu rappresentato singolarmente per la prima volta, cioè da solo, durante una serata di gala al Peterhof in onore di una visita di Stato, e ben presto divenne tradizione estrapolare la scena delle ombre dal resto del balletto e ballarla come solo. Bene, questa è la parte che sentirete, un Sì, tra l'altro abbiamo avuto estratto. un po' di difficoltà nel riuscire Difficile a trovarla, sì, sì, che non si trova da sola, perché perché è nel secondo atto e quindi è tutto collegato, cioè ovviamente comincia quando lui appunto si addormenta, come vi dicevo, quando prende questo veleno, si addormenta e comincia a avere questa visione, però il balletto non ha, ovviamente come nelle opere, non c'è le arie che staccano e si sente da qui comincia l'aria, il balletto è appunto è più un flusso continuo e quindi chiaramente è difficile estrapolare proprio il pezzettino Sì. preciso. Appunto, vorrei fare dei cenni sul compositore perché appunto non abbiamo parlato, poveretto, è quello che ha scritto la musica. E questo famoso Ludwig Mincus, che nacque nel marzo del 26 a Vienna e morì sempre a Vienna nel 1917. È stato un musicista e compositore austriaco, vissuto appunto sotto l'impero asburgico, e però lavorò moltissimo in Russia, fondamentalmente appunto anche collaborando con i coreografi come Petipa. È particolarmente famoso per i balletti che compose, perché non molti ne conoscono il nome, ma in realtà tutti avete sentito magari le sue composizioni. Durante appunto i suoi anni alla corte dei teatri imperiali di San Pietroburgo, era proprio primo compositore di balletto, quindi insomma era considerato appunto molto in alto, posto che occupò appunto dal 1870 fino all'abolizione di questa istituzione nel 1886. Mincus scrisse quasi tutta la sua musica appunto per i maestri del balletto, quindi per i grandi coreografi Arthur Saint-Léon e Marius Petipa, quindi proprio le sue più grandi collaborazioni, tra cui i più famosi sono per esempio La Serse, Don Quixote e appunto La Bayadera del 1877. Diciamo che oltre alle composizioni originali, leggevo che egli aggiunse spesso brani a partiture già esistenti, quindi lui proprio faceva delle aggiunte a composizioni già esistenti e che magari erano di un altro autore, però l'aggiunta appunto delle parti erano sue. Per esempio, per il balletto Paquita, che è un altro da cui vengono sempre estratti dei soli, l'avrete, cioè, si è visto mille volte, le ballerine fanno quasi sempre i soli tratti da Paquita perché è molto bello. Per esempio, il Grand Pas classique, il Pas de Troyes, famoso anche appunto Pas de Troyes di Mincus, e la Polonaise sono di Mincus, sono proprio suoi, sono aggiunti alla musica originale che non era sua. Anche qui. Anche qui appunto, cioè, si ritorna sul discorso che accennavamo prima del fatto che niente si, non esistono No. composizioni completamente originali, ma Quasi mai, anzi nella difficile. storia c'è sempre stato un incollare, un mettere insieme, un lasciarsi ispirare, aggiungere, togliere. Soprattutto per le forme come appunto di arte in cui la musica classica si unisce all'arte performativa e quindi magari vengono appunto no? Rieditate, riportate e quindi aggiunti magari delle parti per particolari ballerini o ballerine o, no? O presi estratti e allora rimusicati e quindi appunto la musica per il Grand Pas de Deux del Don Quixote con le coreografie di Petipa, spesso eseguito indipendentemente dal balletto intero, era di Minkus. La musica per le scene del Regno delle Ombre, per esempio, della Bayadera di Petipa, vabbè, qui l'opera era tutta sua, però anche qui lui la rieditò. Quindi, inoltre, Minkus riorchestrò ed aggiunse musiche per i revival di Giselle. Ecco, per esempio, che è sempre della coreografia di Petipa, molte delle quali sono diventate parti integranti della partitura, che era invece di Adolphe Adam. Quindi, per esempio, anche qui la partitura era di un altro, di Giselle, però alcune parti sono di Minkus, la riorchestrazione. Don Quixote, come dicevamo, il balletto Don Quixote segnò l'inizio di una fertile collaborazione tra Minkus e Petipa che portò alla creazione di una serie di capolavori negli anni tra il 1870 e il 1880, incluso appunto una delle più grandi partiture di Minkus, nonché l'ultimo capolavoro di Petipa, che è la Bayadère del 1877. In questo periodo lui continuò comunque a suonare il violino perché era un violinista, era un professionista violinista ed era addirittura il secondo violino dell'ensemble del quartetto d'archi di Mosca nel 1800, nel quartetto, scusate, nell'orchestra a Mosca, in cui suonò nel quartetto per archi di Tchaikovsky, quindi insomma diretto da Tchaikovsky, quindi ecco, non era proprio l'ultimo Un imbecille, così certo. degli stronzi, però nel maggio del 18 Nonostante il nome, beh. nonostante il nome e la poca fama postuma, però nel maggio del 1883 Minkus scrisse la musica per balletto La Nuit et le Jour, sempre per Petipa, che è una fastosa danza di celebrazione allestita appunto per l'incoronazione dell'imperatore Alessandro III. Quindi, insomma, l'imperatore era un fanatico del balletto, proprio amava il balletto e insignì Minkus dell'ordine di San Stanislao per la splendida partitura. No, cioè, Quindi, ora insomma, San l'ordine di San Stanislao, Stanislao è insomma, soddisfazione. esatto. Nel 1886 Minkus scrisse per Petipa quella appunto che fu l'ultima partitura nel ruolo di compositore ufficiale per il balletto dei teatri imperiali, l'Epilule, che sia Le pilule magiques. l'Epilule Magique. Il balletto debuttò a febbraio nella nuova sede del teatro imperiale Mariinsky. La sua musica, insomma, il fatto che Minkus sia presto dimenticato, sia presto stato così dimenticato un po' dalla storia, ha molto a che fare con il modo in cui la musica per il balletto veniva creata e trattata durante il periodo del suo incarico, appunto, come compositore del balletto imperiale nella Russia zarista. Cioè, in quel periodo la Russia, come in altre parti d'Europa, il coreografo aveva pieno dominio sulla partitura fornitagli dal compositore, cioè era il coreografo che decideva, cioè il musicista non contava nulla fondamentalmente, molto poco, buffo perché invece poi è diventato forse il contrario. Però i balletti appunto del XIX secolo erano un'unione appunto di danza, diciamo, e mimo, così, e recitazione. E la musica doveva essere soprattutto danzante, con melodie leggere, vivaci, strutture ritmiche poco complicate e regolari, capaci appunto di sottolineare i movimenti del balletto e dei corpi dei ballerini. La musica per le scene di azione, di mimo, cioè delle parti più recitate, ricalcavano il dramma teatrale e accompagnavano l'azione, quindi erano proprio un po' musiche da così, un po' più melodrammatiche, e poi c'erano i momenti di appunto di balletto. Minkus aveva un contratto per comporre musica su richiesta e quindi era costretto a nuove partiture in ogni stagione, come pure a rivedere costantemente la musica nei numerosi revival, appunto, di quelli, no? Tutte queste volte che la versione veniva cambiata per adattarsi a un ballerino in particolare, a una ballerina, all'ingresso di nuovi personaggi. Per cui, oltre a fare la partitura lì per lì, sfornarne tutte le volte una nuova, la doveva pure tutte le volte. Ma io spero lo pagassero bene. Sì, vai, perché... gli hanno dato pure la medaglia, insomma. Ah, vabbè, allora. Insomma, la guerra. Come molti, appunto, dei compositori specializzati in balletto venuti prima di lui, perché ci sono stati compositori che hanno composto per balletto, ma non erano solo compositori per balletto. Appunto, pensiamo a Tchaikovsky, che è vero, ha composto tantissimo per balletto, però non era soltanto un compositore per balletto. O, perché no, insomma, ce ne sono tanti altri che hanno fatto opere specifiche, però magari non erano solo. Lui era proprio un compositore per balletto specializzato. Quindi Minkus componeva la maggioranza delle partiture durante le prove, capito? Mentre proprio il coreografo componeva le danze, quindi gliele adattava addosso, cioè gliele faceva. Mentre, per esempio, sappiamo che lo Schiaccianoci fu composto invece, per esempio, tutto prima e poi. Poi dopo è stato fatto la coreografia, l'adattamento. Esatto, credo, almeno mi sembra proprio così. In generale, appunto, quelli che i musicisti più famosi, quelli che erano considerati musicisti sinfonici, facevano prima il balletto e poi il compositore, poi magari riadattavano delle parti, tenendo conto dei soli, ovviamente lo componevano tenendo conto che era un balletto, però invece lui lo faceva proprio mentre, quindi assomiglia quasi più a un artigiano, a certe cose della musica per film quasi, cioè sì, o anche a proprio un tecnico del teatro, se esatto, vogliamo. Il musicista, appunto, metteva in pratica le istruzioni dettagliate del coreografo, componendo così musica su ordinazione. Ah, qui riuscita, appunto, come dicevamo, anche Tchaikovsky a volte, appunto, credo di no, invece mi hanno subito smentito, subì la stessa sorte per La Bella Addormentata, e invece, vedi, pensavo di no, invece anche per lo Schiaccianoci, che si vide anche cambiate, che vide cambiate queste partiture da Petipa. Oddio, vabbè, su Tchaikovsky non lo so, infatti, quanto è stato cambiato dopo, quanto, esatto, quanto, cioè, magari gliel'ha cambiate dopo, mentre lui ma faceva prima, infatti, se le componeva, sì, direttamente, sì. Così quello tutte le volte non gliele ricambiava, perché invece, appunto, Schiaccianoci e La Bella Addormentata, composte prima, Petipa gliele fece proprio. Buffo che i coreografi avessero, appunto, tutto questo il potere, fondamentalmente. Sì, perché comunque l'immagine del musicista star nasce dopo, quindi probabilmente a noi ci fa strano, però spesso Minkus scriveva 4-5 passaggi melodici per una variazione in modo che il coreografo potesse scegliere quelli a lui erano più congeniali, così che la musica veniva tagliata su misura per adattarsi a qualunque cambiamento. Quindi assomiglia proprio alle score, quelle che si chiamavano score per il cinema, davvero per le colonne musiche del cinema. Che venivano proprio molte che venivano comunque dalla musica classica all'inizio, quindi torna. Molte delle partiture originali di Minkus contengono numerose ripetizioni opzionali di varie frasi, anticipando così i tagli durante l'ensemble, un ouverture o 4-5 passaggi melodici e una chiusura, che poi veniva assemblata dal coreografo a seconda di quanta musica gli serviva, quindi proprio facevano proprio un collage. Ancora più interessante, c'erano momenti in cui la musica doveva essere composta per un passo, era già stata coreografata per un altro in un altro balletto magari, e quindi Minkus veniva spesso richiesto di interpolare la musica di altri compositori all'interno dei suoi lavori. Cioè, siccome magari il Petipa aveva scritto quei passi, aveva studiato quei passi già per la Cenerentola, siccome lui gli diceva io voglio quei 3-4 passi, voglio la musica per quei 3-4 passi stanno su quella musica lì, quindi te devi prendere quella frase, quel nucleo, e incorporarlo nel balletto tuo, anche se la musica era di Tchaikovsky. Capito? Perché io devo usare quei 3 passi lì che vanno solo su quella musica lì. Bene. E quindi buffo. Collage proprio il collage totale. Quindi lui doveva essere particolarmente bravo, perché insomma anche riuscire a fare questo. Sì, e poi dargli un senso organico. E dargli un senso organico. Ed equilibrio, insomma, infatti, del tutto. Chi conosce bene il balletto, secondo me li riconosce anche. Cioè, quando vedi tanti balletti, comincia a sentire dei pezzi che si assomigliano, magari non solo perché sono dello stesso compositore, magari, ma perché davvero ci sono dei passaggi che sono presi da un altro balletto. Sono proprio quelli. Che sono proprio quelli. E appunto, quindi appunto, sempre agli ordini della ballerina, magari della prima ballerina che voleva ballare la sua variazione preferita, presa da un altro balletto, e lui magari gli toccava stare a questo. Come la lirica, Queste qui. interpretazioni spesso richiedevano che la musica inserita in mezzo ad altri brani fosse adattata per permettere, appunto, come dicevi te, transazioni coerenti con lo stile, non poteva staccare, Certo. appunto. E quindi la maggior parte delle musiche per il balletto di Minkus è in tempo doppio o triplo, quindi 2 quarti, 4 quarti, 3 quarti, 6 ottavi e via, ma occasionalmente compose anche danze in 5 quarti, in 7 quarti, e quindi appunto. Per esempio, alternandone 4 quarti e 3 quarti, come si nota nella Danse des Esclaves, della Bayadera. Ci sono appunto dei momenti in cui il ritmo non è magari il solito, ma cambia. E il tempo di 4 quarti è quello maggiormente usato per la danzatrice del tempio, per le ninfe, per le zingari. Ci sono proprio dei ruoli nel balletto classico che hanno uno speciale ritmo. Qui leggevo contadine, fate, torieri, principi e principesse, re e regine, che fossero vivi o fantasmi, tutti danzavano fondamentalmente a un ritmo di valzer, perché chiaramente è il tempo che ha più stabilità, che ha più appoggio. Questo cambierà, penso, credo io, ma insomma, da quello che ho sempre studiato e sempre visto, cambierà poi con musicisti magari come Stravinsky, piuttosto con musicisti che si avvicinano più al Novecento, che daranno invece al balletto tempi musicali magari un po' più estremi, no? Più convulsi, più compulsivi, come può essere appunto L'Uccello di Fuoco, piuttosto che appunto altri lavori di musicisti, ora ho detto Stravinsky in particolare, ma insomma di musicisti che si avvicinano più al Novecento e che quindi si staccano un po' magari dal solito, così, dal ritmo canonico, un po' valzer, appunto, un po' ballabile, che non vuol dire che ricorda per forza il valzer, però appunto uno dei punti di forza di Minkus era appunto l'abilità di creare una vasta varietà di melodie e di atmosfere, vale a dire appunto l'elemento principale su cui si giudicava la musica da balletto per il XIX secolo, cioè l'ampia gamma di melodie, non E beh, fosse non ti deve sempre solito, annoiare. no, anche perché insomma, lo storico del balletto Konstantin Salkowski racconta che in un suo saggio che la marcia di Minkus tratta dal suo balletto del 1878 Roxana, appunto, parla di questa bellezza, appunto, narra la bellezza di un paesaggio ed era il pezzo preferito dello zar, che in genere, appunto, non amava la musica a sé, ma amava appunto solo sinfonica. E molti plotoni delle forze armate di terra russe assediarono Pleven al ritmo di questa marcia. Quindi, Che bello. insomma, No, siamo da quanto gli molto. piaceva. E quello è così, quello lo insomma, Siamo è confortati lo da questo. zar, finché non arriva un'altra banda, lì è così, E non è che poi dopo sia tanto No, meglio, infatti. soprattutto. Comunque, appunto, dicevamo, l'abilità di creare una vasta gamma di melodie, di rendere atmosfere, e l'altro grande talento di Minkus era la composizione per violino ed arpa solista, per esempio questo scisso da. Infatti c'è molto l'arpa nelle musiche per balletto. Le sue composizioni furono scritte tenendo a mente i talenti del violinista, insomma, di vari violinisti famosi in quel momento, e lui diresse appunto per molto l'orchestra, con tantissimi elementi. L'orchestra imperiale era veramente grande, tra cui appunto ottavini, clarinetti, corni, oboe, bassi, contrabbassi, insomma l'uso di tube, tromboni, spesso di 2 arpe, di percussioni, e addirittura di strumenti inusuali come il gong, le nacchere, insomma, tutti strumenti inusuali, insomma, che non si usavano fondamentalmente di No, base, non proprio banali, non proprio diciamo. banali, proprio perché lui, venendo probabilmente dalla scrittura per il balletto, venendo dalla tradizione della scrittura per balletto, appunto, amava avere strumenti che davano atmosfera, in particolare, appunto, che rendevano così dei paesaggi, perché quello era il suo modo, la sua scrittura. Morì a me in povertà, tra l'altro, leggevo, perché poi quando perse, appunto, tornò a Vienna e perse, appunto, l'incarico alla corte zarista. Poi sappiamo, la storia ci insegna, cosa Altro che successe? Altro che balletti, balletti, quindi insomma nei primi anni 20 già, insomma, situazione beh, insomma, dal 17 in poi. oh. Cioè, perlomeno un altro tipo di No, in realtà sì, balletti, appunto, infatti, però chiaramente così morì appunto nel 17, proprio preciso, a Vienna. Tra l'altro la figlia fu una grande ballerina, leggevo, e in povertà purtroppo, quindi ecco, un po' dimenticato, e però uno di quelli che, un altro di quelli dimenticati dalla storia della musica classica, ma che in realtà molti di noi, probabilmente senza saperlo, me compresa, hanno sentito le sue composizioni tantissime volte. Va bene, va Questo è bene. quanto, ed è appunto, vi invito a appunto, andare a vedere, se vi capita, appunto, martedì sera alle 21, mi sembra comunque sul sito del Cinema Odeon, sicuramente c'è insomma, tutte le informazioni nella versione, questa Bayadère, nella versione del Royal Ballet di Londra, quindi uno dei maggiori, insomma, più importanti scuole di ballo, compagnie di ballo mondiali, in una versione, così, in un allestimento pare veramente, veramente bello, veramente particolare, e io penso che andrò, quindi poi magari vi darò qualche commento la prossima volta, come se non fosse bastato, insomma, tutto questo, Ah no, vabbè, vi però. Certo, beccherete anche il commento post. vogliamo sapere almeno se ti è piaciuto, Sì, se era ovvio, bello, se non era sì. bello e Sì, tutto e quanto. vabbè, io sono un po' difficile, insomma, ovviamente, un amante, quindi sarà difficile che non mi piaccia, però vi darò sicuramente, non l'ho mai visto dal vivo questo balletto, per cui ah, ci abbiamo le Vi posso info, dire che era come. con la lentezza che contraddistingue l'internet nella Batcaverna, però sono arrivata e so che vi anticipo che appunto sarà all'Odeon il 13 novembre alle Ah, ecco, alle 20:15, perché 20:15. comunque dura un po', per cui Sì, sono 185 non so minuti. se lo fanno nella versione originale, però comunque dura. Ah sì, invece sì, in È realtà, trasmessa in sempre diretta dura. dalla prestigiosa Royal Opera House di Londra, Carrie. Esatto, il balletto fantastico di Mario Spetipà, ambientato in un'India leggendaria, vi leggo appunto così, la locandina, la Bayadère, ora la storia No, non anche ve la perché. riracconto, e volevo dirvi di chi era l'allestimento, Non lo volevo sapere se dicono. non c'era scritto, è di una, sembra sia di una scenografa, tra l'altro, ve lo dirò poi quando lo Qui non lo vedo, non me lo ricordo a dicono e memoria. quindi Comunque, ci. fa parte però, vi dirò, di un ciclo di opere che stanno mandando in diretta dalla Royal Opera House di Londra. Lo scorso martedì c'era Valchiria di Wagner, e fanno opere e balletti. E faranno il Don Quixote, mi sembra, non mi ricordo le date esatte, faranno una bellissima opera lirica, tra l'altro una delle poche di Tchaikovsky, tra l'altro. Poi vi dirò anche su quella, vi faremo magari un approfondimento, rara. E insomma, ecco, fanno un ciclo al Cinema Odeon, fanno questo ciclo di dirette dalla Royal Opera House, sia di opere liriche sia di balletti. Va bene, allora ci ascoltiamo a questo punto perché abbiamo parlato per 7 ore, Sì. ci ascoltiamo, sono circa 36 minuti, un po' meno, comunque una mezz'oretta, questo Regno delle Ombre tratto dalla Bayadère e poi direttamente vi lasciamo al palinsesto del Wombat con le repliche, la bobina e tutto quanto e noi ci risentiamo invece sempre su Radio Wombat domenica prossima, sempre intorno alle 18. E quindi vi salutiamo anche. Ciao ciao! E quindi buona Bayadère.